205. Pollo dorato primo. Prendete un pollastro giovane, vuotatelo, levategli la testa e le zampe, lavatelo bene e tenetelo nell'acqua bollente per un minuto. Poi tagliatelo a pezzi nelle sue giunture, infarinatelo, conditelo con sale e pepe e versategli sopra due uova frullate. Dopo mezz'ora almeno di infusione, involtate i pezzi nel pan grattato, ripetendo per due volte l'operazione, se occorre, e cuoceteli a brace in questa maniera. Prendete una sauté o una teglia di rame stagnata, ponete in essa olio, o meglio lardo vergine, e quando comincia a grillettare, buttate giù i pezzi del pollo facendoli rosolare da ambedue le parti a moderato calore, onde la cottura penetri nell'interno. Serviteli bollenti con spicchi di limone. L'ala di tacchino, che l'essa è la parte più delicata, si presta egualmente bene per essere tagliata a pezzetti e così cucinata. La punta del petto e le zampe dei polli, compreso il tacchino, possono darvi una norma della tenerezza delle loro carni, perché quando invecchiano la punta del petto indurisce e non cede alla pressione delle dita, e le zampe, da nere che erano, si fanno giallastre. 206. Pollo dorato secondo. Dopo averlo trattato come il precedente, tagliatelo a pezzi più piccoli, infarinatelo, immergetelo in due uova frullate e salate a buona misura, friggetelo in padella, conditelo ancora un poco con sale e pepe e servitelo con spicchi di limone.